Benvenute e benvenuti in biblioteca, Biblioteca Provinciale Italiana Claudia Augusta. Questa sede provvisoria è in attesa di del polo bibliotecario. Siamo qui ormai da 8 anni e ogni lunedì o martedì organizziamo delle iniziative, apriamo questa biblioteca, questi locali per far vedere il lavoro che facciamo e siamo sempre contenti, ci dà particolarmente soddisfazione, ecco, con l'aiuto anche del senatore Bertoldi, quando vediamo che gli appuntamenti vengono seguiti, vengono accolti dall'utenza con grande entusiasmo e numerosi accorrete in questa struttura. Da anni lavoriamo sul territorio, lavoriamo per documentare la vita e tutti gli aspetti della nostra storia locale e sicuramente una fetta importante del lavoro svolto e che svolgiamo tutt'oggi è quello legato alla memoria. Ogni anno poi in aprile cerchiamo appunto di lavorare ricordando anche quella che è stata la resistenza e il contributo che è stato dato per la ricostruzione appunto dell'Italia. Abbiamo questa sera con noi l'occasione di ospitare appunto la famiglia Muruzzi, le memorie raccolte in questo libro che poi ci verrà presentato, e ringrazio sin da ora gli autori, la famiglia Muruzzi, Lampi soprattutto, che ci sta sempre vicino, e anche chiaramente Giorgio Mezzalira e Francesco Comina, che ci aiutano spesso nel nostro percorso di indagine e di documentazione. Mi fermo qui, vi ricordo solamente 2 cose, che la biblioteca è aperta a tutti, siamo aperti 6 giorni a settimana, e i libri sono qui esposti sugli scaffali, quindi chiunque può venire, prendere, guardare, portare a casa, ecco, vi invitiamo a tornare a trovarci, se vi fa piacere ricevere notizie di quello che facciamo e gli inviti alle nostre iniziative che sono, come ripeto, settimanali, basta iscriversi, è gratuito, ma almeno così ricevete l'informazione, ecco, corretta. Il prossimo appuntamento è giovedì questo, il 23, la giornata del libro, facciamo alle ore 11 un aperitivo con assaggi di lettura, ecco, tutti noi leggeremo alcuni romanzi di ambientazione locale e chi vuole venire ad ascoltare, trascorrere un'ora con noi, ecco, è ben accolto, benvenuto. Mentre la prossima settimana, ecco, noi facciamo sempre lo spot anche per l'iniziativa successiva, e sarà con noi Luisa Pacchera, aveva presentato il suo libro con lo storico Christoph von Hartungen, un libro dal titolo La Marchesa Gemma Guerrieri Gonzaga, nata dai Gresti di San Leonardo, le cui vicende comunque sono legate sempre alla nostra storia locale e anche in parte alla resistenza. Io vi ringrazio, cedo la parola al nostro assessore, nonché presidente della biblioteca provinciale, dottor Tomasini. Grazie. Buonasera anche da parte mia, vi ringrazio di essere venuti, ci fa molto piacere, ringrazio la biblioteca che effettivamente fa da qualche anno un percorso molto molto importante in occasione del 25 aprile, un percorso di ricostruzione della nostra memoria, e questo è un libro molto significativo. Io ringrazio i signori Muruzzi e ringrazio i partigiani che hanno dato la propria vita, la propria esperienza appunto per liberarci del nazifascismo. Credo che sia molto molto importante trasmettere gli ideali e i valori della resistenza alle nuove generazioni. Noi vogliamo come cultura italiana adesso impegnarci insieme a Lampi anche in un percorso, Lampi già lavora da tanti anni, è una colonna della nostra comunità per trasmettere appunto questi ideali, questi valori, vogliamo in questa nuova legislatura ancora di più impegnarci nel far conoscere la resistenza anche qui in Alto Adige, la resistenza che è stata resistenza da parte dei cittadini madrelingua italiana, ma anche di cittadini madrelingua tedesca. Sono veramente valori che possono unire la nostra storia e la nostra comunità. Anche ieri e oggi poi ci sarà la celebrazione di un altro partigiano sotterolese, Gardner, e credo che veramente la resistenza sia un capitolo della nostra storia che può essere valorizzato e può essere conosciuto dalle nuove generazioni e possa essere un antidoto nel conoscere quello che è avvenuto, i crimini contro l'umanità, le sofferenze, le tragedie dei totalitarismi nazifascisti, possa essere uno strumento per, da un lato, perché questo non si ripeta più, e dall'altro per costruire un capitolo e far luce su un capitolo della nostra storia che possa costituire un perno, un punto fermo e anche un antidoto all'estremismo di destra che purtroppo prende piede anche fra i giovani della nostra provincia, come vediamo e come sentiamo. Quindi sulla resistenza, sulle resistenze vogliamo fare un lavoro importante, e questo libro, questo percorso anche fatto dalla Biblioteca Claudio Augusta, è sicuramente un percorso in questa direzione. Io ritengo particolarmente importante che persone che hanno vissuto direttamente quel periodo possano raccontare. Naturalmente i tempi passano e quindi la possibilità di testimonianze dirette è sempre minore, quindi è importante raccogliere queste testimonianze e cercarle di trasmettere anche in maniera comprensibile appunto alle nuove generazioni. Questo è quello che mi sta più a cuore, questa trasmissione degli ideali, dei valori, delle esperienze, delle testimonianze. E quindi grazie di essere qui, grazie di questo libro, e vi lascio la presentazione. Non è obbligatorio, vorrei ringraziare delle presenze, e voglio ringraziare la Biblioteca Claudio Augusta che ci ha dato accoglienza, che ci ha dato ospitalità per presentare un libro a cui mettiamo molta importanza. Ieri ho avuto la fortuna, era tanto tempo, era una cosa solenne ieri, perché era tanto tempo che la resistenza italiana, che io rappresento indegnamente a Bolzano, non si incontrava con la resistenza sudtirolese. E ieri al cimitero, purtroppo, di Bresciannone, abbiamo incontrato uno dei partigiani sudtirolesi, Hanse Gartner. E quindi è stata l'occasione che la resistenza italiana si è incontrata con la resistenza sudtirolese. Guardate che questo lo aspettavamo dal dicembre 1944, perché Mario Longon, medaglia d'oro, anche lui è andato via davanti a noi e ha cercato di prendere contatto con la resistenza sudtirolese, lui rappresentante della resistenza senza armi a Bolzano, di prendere contatto con questa resistenza attraverso Erich Hamon, uno dei fondatori della SVP a Bolzano. La storia è questa qui, non è mica un'altra. L'Andrea Loferbohm, di cui il comandante Lobmann era Hanse Gartner, che ieri abbiamo onorato, è stata la capostipite della fondazione della Volkspartei Bolzano. Parecchi dei dirigenti che stavano nell'Andrea Loferbohm sono poi passati a dirigere e a fondare il partito della Volkspartei Bolzano. Dicevo, abbiamo aspettato tanto tempo che la resistenza italiana si incontrasse con la resistenza tedesca. Perché è stato tanto difficile? Al punto che una volta che è morto Longon, catturato il 20 dicembre del 44 e ha ucciso dentro il corpo d'armata qui, non si è potuto incontrare, perché si battevano tutte e due le resistenze, si battevano contro i fascisti, contro i nazisti, ma avevano obiettivi diversi. Gli italiani volevano liberare il nostro paese dai nazisti, dai fascisti, fino alle Alpi. I sudtirolesi volevano tornare a casa loro, volevano tornare con la madre patria Austria. Quindi la resistenza non si poteva incontrare in quel momento, anzi, anche se combattevano gli stessi nemici. La stessa cosa vale per voi. Ho sentito l'assessore che dice che si impegni, che per fortuna nostra l'istituzione provincia di Bolzano curerà la protezione della memoria. Quello è solo il nostro impegno. Noi non abbiamo, come ANPI, non abbiamo nessun altro impegno. Abbiamo da conservare ricordi, e qualche volta i ricordi sono molto dolci, come in questa occasione con la famiglia Moruzzi, ma soprattutto protegge la memoria dei sacrifici fatti, perché quello che sta dietro è un immenso sacrificio dei partigiani che hanno combattuto, che hanno sofferto, che sono stati imprigionati in diverse carceri dei fascisti, che sono morti, un enorme sacrificio che ha dato il frutto più bello al nostro paese, che è la Costituzione. Quindi quando noi andiamo dai giovani, e i giovani sono passati alla LUB, sono passati alla Libera Università di Bolzano, dove avevamo la mostra oltre quel muro, sono passate 10 classi di diverse scuole di Bolzano. E che cosa abbiamo detto? Giovani, guardate, sono tutte cose tristi, ma andate via fieri e contenti, perché questo sacrificio vi ha garantito nella Costituzione i vostri diritti. È quello che attualizziamo con la protezione della memoria che facciamo, è che quei sacrifici sono stati posti come valori e come diritti di tutti i cittadini nella Costituzione. E quindi i giovani devono vedere nel sacrificio fatto e nella Costituzione quei diritti e qui messi e quei valori in modo da poterli raggiungere. Questo è il messaggio che diamo ai giovani. La dottoressa Trevisan fa la propaganda per la biblioteca, benissimo, perché qualcuno che ricordo bene dice: studiate, abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza, quindi i libri, la cultura è quello che ci serve. Noi diciamo, badate, che abbiamo bisogno di attrezzare gli strumenti. L'Ampi copia in piccolo settore, la provincia copia molto di più, il comune ancora altrettanto, le istituzioni, la scuola devono coprire questo spazio che dice alla società italiana, come senso comune, che il sacrificio ha posto diritti nella Costituzione. Noi copriamo un piccolo spicchio di questo grande compito. Per questo invitiamo tutti i cittadini italiani che si riconoscono nei valori posti nella Costituzione, possono ora iscriversi all'Ampi. Non so, io a Bolzano ho solo 16 partigiani iscritti a Bolzano, tutti gli altri sono cosiddetti antifascisti, cioè cittadini italiani che riconoscono i valori dell'antifascismo posti nella Costituzione. Quindi io invito i giovani, e anche i meno giovani, a iscriversi all'Ampi, perché abbiamo bisogno di essere mobilitati e io ho bisogno che qualcuno mi sostituisca rapidamente. Un giovane deve prendere il mio posto rapidamente. Ecco la presentazione del libro. Le memorie dei partigiani a Roma sono anche le mie memorie, perché io dico ai partigiani che in maniera dispregiativa per quel gruppo vengono denominati cattocomunisti. Noi siamo fieri di aver conosciuto cattocomunisti. Abbiamo conosciuto i coniugi Miruzzi, ma abbiamo conosciuto Giglia Tedesco, che è stata la mia capogruppo al Senato, abbiamo conosciuto tanti altri, la Cinciari Rodano, Tatò, abbiamo conosciuto tutti cattocomunisti. Siamo fieri di aver conosciuto degli uomini che hanno legato la loro fede a una più alta idealità, hanno irrobustito la loro fede cattolica con una idealità ancora più alta. Vi ringrazio e ringrazio di nuovo la dottoressa Trevisan della biblioteca, perché siete venuti questa sera. Grazie. Allora, buonasera a tutti, io sono Giovanna, la figlia maggiore di Paolo e Silvia, di Paolo Moruzzi e di Silvia Garroni. Volevo prima di tutto ringraziare tutti voi, prima di tutto la biblioteca che ci ospita, forse ancora prima l'Ampi, perché questa iniziativa, se non c'era l'Ampi, francamente a noi non sarebbe mai venuta in mente. Vorrei ringraziare i relatori che si presteranno a illustrarla, che si sono studiati il libro, che l'hanno inquadrato storicamente. Vorrei ringraziare tutti voi che siete venuti qui, alcuni amici miei ancora del liceo, altri che so sono impegnati sul campo, e amici dei miei genitori. Quindi grazie a tutti di essere qua, e anche grazie del significato che si è voluto dare, che l'Ampi ha voluto dare a questo che viene chiamato libro, adesso vi dirò, viene chiamato in relazione al 25 aprile, insomma, quindi con un significato veramente molto alto e molto di responsabilità. Vorrei spiegarvi come è nato questo, tra virgolette lo chiamo libro, dico tra virgolette, perché questo libro in realtà non è nato come libro. Sostanzialmente quando i nipoti, allora noi siamo 5 fratelli, e vi dirò che il ringraziamento che vi ho fatto è a nome di tutti e 5, anche se qui siamo presenti soltanto in 3. Una sorella vive negli Stati Uniti e torna ogni tanto, però ovviamente non è qua, e l'altra sorella vive a Reggio Emilia e oggi era proprio impossibilitata a venire, però sono qua con noi col cuore e sono presenti nelle mie parole. Noi tutti figli ci siamo tutti sposati e quindi abbiamo molti nostri figli e quindi nipoti dei nonni di Silvia e Paolo. Quando i nostri figli hanno cominciato ad avere un'età, diciamo il mio è il più grande, in età di liceo, naturalmente hanno cominciato a interessarsi alla storia dei nonni e alla storia della guerra e alle cose che ogni tanto venivano fuori dai racconti dei nonni. E così è successo che nel 93, ma la nonna ci ha messo un po' a scrivere questa cosa, la nonna ha pensato di mettere per iscritto il suo ricordo della guerra, perché ha detto È bello, cioè vorrei che i miei nipoti sapessero qual era il clima, qual era la vita che facevamo e anche qual è stata la sua esperienza partigiana e la sua esperienza di detenzione. Mamma è stata arrestata nel dicembre del 43 e ha fatto 6 mesi di galera, di cui una parte in isolamento e una parte nel carcere di Modena trasferita. Quindi è nato questo primo testo che poi alcuni nipoti hanno voluto impaginare, ce l'hanno regalato a Natale in maniera artigianale, nel senso con una bella copertina, e noi ce lo siamo tenuti come un ricordo di famiglia. I nipoti poi insistevano perché anche il nonno scrivesse, ma il nonno a scrivere era assolutamente refrattario e quindi non c'è stato verso. Fin tanto che nel 2001 finalmente i nipoti l'hanno spuntata. Il nonno si è preparato una scaletta per raccontare ai nipoti la sua esperienza e quindi c'è stata una bellissima riunione a Natale con tutti i nipoti intorno al tavolo in cui la testimonianza del nonno è stata registrata, però un nipote aveva oltretutto un microfono professionale per fortuna e quindi mi è venuto fuori un racconto orale. Infatti vedrete che i due testi sono abbastanza diversi e poi un nipote volenteroso l'ha sbobinato e quindi a un altro Natale ci è stato regalato anche il secondo racconto dei nonni. A Natale scorso Adriano, mio fratello, ha pensato ma perché non lo mettiamo invece in forma artigianale, una bella copertina così, lo facciamo sotto forma di libro e quindi l'ha spedito a questi siti internet dove se tu gli mandi da scritta qualunque cosa te la pubblicano in un libro e così è uscito questo libro. Infatti questo libro non è in libreria, è un libro che si acquista su internet e è secondo me anche carente per alcune cose, io dico ma almeno un indice, almeno una biografia degli autori, qualcosa forse ce la potevamo mettere, però è stata una bella idea perché questo libro poi è stato dato a Leonardo Bertoldi, il quale ha detto ah fantastico questo libro, lo presentiamo e lo utilizziamo il 25 aprile. Quindi dico anche a voi, chi vorrà leggerlo, avrà la voglia di leggerlo, che non aspettatevi una dizione italiana e una struttura di questo libro come se fosse un libro, e prendetelo come una testimonianza. Secondo, se lo volete avere, allora alcune copie le abbiamo fatte venire perché abbiamo pensato che qualcuno forse oggi le voleva, se no possiamo raccogliere le vostre, chi lo vuole, i nominativi di quelli che lo vogliono e poi possiamo fare un'ordinazione perché a noi costa un po' meno, poi viene a costare 10 euro, invece se lo volete ordinare direttamente comunque vi diamo il sito e basta cliccare e farselo mandare che ve lo mandano. Questa è un po' la storia di questo libro. Due parole volevo dire sulla vita dei miei genitori, cioè un attimo, inquadrarvi un attimo, sarò brevissima, taglio. Allora, papà Paolo Moruzzi è nato nel 20 e mamma invece è nata nel 21. Non vi racconto la storia della resistenza che vi sarà qui illustrata nel periodo, cioè nel periodo che va sostanzialmente dal periodo della guerra al 44, perché le storie dei nonni arrivano fino alla liberazione di Roma che è del giugno del 44. Quindi questo è quello che troverete nei libri. E non vi racconto la loro militanza nel movimento dei cattolici comunisti perché verrà qua illustrata. Invece vi dico perché i miei genitori sono venuti a Bolzano. Loro sono venuti perché papà è venuto qua per lavoro. Quindi papà commerciava nel legname, ha messo in piedi un'azienda che la sua prima segheria era che hanno comprato loro fratelli, perché hanno tre fratelli, era in Valdega. La successiva è stata la Vis, quindi mio papà è stato un imprenditore che si è occupato di legname e ha avuto la segheria alla Vis, però ha sempre abitato a Bolzano. E poi ha ricoperto cariche importanti, papà è stato presidente dell'Associazione Industriale di Trento per più mandati, è stato presidente della Federlegno a Milano di tutto il settore legno, quindi diciamo ha avuto degli incarichi anche istituzionali. A Bolzano volevo dirvi, io mi ricordo comunque di essere sempre stata in contatto tramite loro col Partito Comunista di qua, io mi ricordo di Andrea Mascagni, della Nella Mascagni, con la quale anche mamma era molto amica, mi ricordo che frequentavamo la famiglia Visentin di cui parlavo adesso a Fabio, che andavamo in giro insieme, mi ricordo le iniziative culturali che faceva il Partito Comunista, io me le ricordo quelle all'Hotel Alpi, che probabilmente appunto io ero ragazzina e mio papà mi portava lì e c'erano le iniziative fatte da Gutier, mi ricordo, organizzate da subito, quindi mi ricordo, noi abbiamo sempre un po' frequentato. Noi, a seconda della nostra età, siamo stati diciamo amici di Alexander Langer, abbiamo frequentato quelli di noi che avevano l'età giusta, Die Brücke, la prima Die Brücke che c'è stata a Bolzano. Devo dire che i miei genitori, la seconda, comunque il gruppo, i miei sono sempre stati molto cattolici, quindi i miei facevano riferimento a Don Giuseppe Rauzzi, quindi quella era la parrocchia di riferimento. Questi un po' per inquadrarvi, i miei genitori hanno sempre voluto, da quando siamo venuti qua, che noi imparassimo il tedesco. A quei tempi era una cosa strana per un gruppo italiano, ma il tedesco non era visto come dovete imparare il tedesco perché sennò qua in Alto Adige non si lavora. No, l'atteggiamento era: qui la popolazione di lingua tedesca, voi dovete rivolgervi a questa popolazione in tedesco. Io questo me lo ricordo chiaramente. Loro non c'erano scuole di lingue, ci hanno mandato in Germania dalle suore in posti tremendi per imparare questo tedesco. Ecco, però diciamo, questo è stato sempre l'atteggiamento nei confronti di questa terra. Ecco, quindi io questo volevo un po' dirvi. Ok. Ecco, io volevo su questo, mamma invece si è occupata qui dell'UDI, si è occupata quindi dell'8 marzo, mamma ha lavorato nella Mascagna, ha lavorato con la Visentina nell'asilo dell'UDI e poi si è occupata dei suoi 5 figli. Questo è un po' il quadro generale. Io volevo dirvi questo, vorrei ringraziarvi da parte di mamma, che non se la sente di parlare, dirvi anche che lei ha sempre detto che il suo scritto in realtà non valeva la pena di essere pubblicato, che bisogna leggere il libro di Carla Capponi. Lei ha sempre detto il libro che bisogna leggere è quello di Carla Capponi, quindi questo ve lo voglio dire a nome suo e voglio ringraziarvi a nome suo, perché lei no, fa fatica a farlo, e ringraziarvi per anche così l'onore che le tributate, dirvi anche che però lei non se la sente adesso di rimanere qui e quindi vi saluta e quindi andrà a casa a riposare, perché lei è abbastanza faticoso star qua. Quindi vi ringrazio tutti anche a nome suo. Scusa, siccome non ho avuto occasione di incontrare Silvia Garone Moruzzi, mi permetto di consegnarle la tessera dell'Alpi che lei ha sempre fatto assieme al marito per molti più anni di me. Grazie. Ecco, allora se vogliamo cominciare, va bene, io l'accompagno e poi intanto cominciate. Vorremmo adesso iniziare a parlare di questo testo, come dice giustamente Giovanna, mia sorella. Non è un libro perché non è nato come tale, è un testo. Ciao mamma. Aspetta, voleva fare una cosa anche la signora. Andiamo. E leggiamo alcuni brani di questo testo e poi il professor Mezzanira inquadrerà il periodo storico. Anche per inquadrare la famiglia di origine di papà, che come diceva mia sorella, era una famiglia molto cattolica. Mio padre era un uomo, direi, di un'ortodossia rigorosa, questo scrive mio padre. La mia era la famiglia in cui c'era un'istintiva opposizione al regime. Ricordo che il fascismo lanciava grandi campagne perché le famiglie avessero molti figli. La famiglia numerosa era una famiglia benemerita della patria, che bene meritava dal fascio di tutte le attenzioni. Mio padre e mia madre, invece, per altre ragioni, perché erano cattolici ortodossi, avevano una famiglia numerosa. Eravamo 8 tra fratelli e sorelle. In quanto famiglia numerosa, eravamo una famiglia rispettabile. Noi bambini eravamo automaticamente iscritti alle organizzazioni fasciste, in quanto andavamo a scuola. Dovevamo essere balilla, dovevamo essere avanguardisti, dovevamo essere piccoli italiani o giovani italiani, non so come li chiamavano allora. Lo dovevamo essere per forza e dovevamo andare alle adunate. Io andavo vestito da tutti i giorni. Non avevo la divisa da balilla o da avanguardista. Intanto che una volta me ne dissero di tutti i colori e dissero che volevano parlare con i miei genitori. Allora mia madre si presentò con me a fianco dicendo: «Cosa volete voi altri?» in bolognese, perché parlava bolognese, disse: «Io sono madre di 8 figli e non andrò mai a spendere i soldi per 8 divise, perché i miei figli, perché non ce li ho e non intendo spenderli, per i miei figli, perché non li ho e non intendo spenderli. Ci scusi tanto, signora, vedremo di fare in qualche modo, eccetera, eccetera». Insomma, venne via da quell'incontro, non ci fece la divisa, non ci vestì da balilla o da avanguardisti. E il movimento dei cattolici comunisti, mio padre scrive: «I primi anni 40 furono quelli in cui ci strutturammo sempre più fino a sentirci un movimento. Nei volantini ci firmavamo ufficialmente Movimento Cattolici Comunisti. Ricordo, come se fosse adesso, quando decidemmo di modificare l'organizzazione nostra da un punto di vista strutturale. A me diedero l'incarico di dividere la città in quartieri, in zone e in cellule, con a capo dei compagni, in modo che però non si conoscessero gli uni con gli altri. Era la cosa più organizzata che riuscivamo a fare. Ci si trovava in una stanzetta, che era la Santa Maria in Cappella, che era una piccola chiesetta abbandonata nel quartiere di Trastevere a Roma. Questa chiesetta era attaccata ad un dormitorio pubblico per barboni, per gente che cercava un tetto. Quindi a una certa ora eravamo pregati ad andarcene, perché c'era un certo movimento di gente che andava e veniva. Non passava di lì da noi, ma passava vicino e potevamo essere osservati, visti. Ci trovavamo in una stanzetta squallida da morire vicino a questo dormitorio pubblico, io, Rodano, Ossicini, Lele D'Amico, insomma noi che dovevamo un po' sovraintendere e discutere che cosa era bene dire sul giornale, che cosa doveva uscire clandestino, che doveva uscire clandestino nei giorni successivi, le manifestazioni che volevamo organizzare, i volantinaggi e perfino i documenti più importanti. Un testo di mamma, il trasporto delle armi. Mi sovviene di un piccolo episodio, un episodio buffo tra i tanti eroici o dolorosi o tragici di cui fummo testimoni negli anni della Resistenza. Eravamo a Roma nel novembre 43. Mia sorella aveva sposato mio cognato in condizioni estremamente difficili, con la polizia alle calcagna. Vivevano alla macchia, lavoravano tutti e due intensamente per organizzare la Resistenza. Un giorno occorreva trasportare in una certa cantina che fungeva da fabbrica di armi un notevole quantitativo di esplosivo. Era urgente, non si poteva dar nell'occhio. Di solito queste cose le facevamo noi donne. Una ragazza con una gran borsa della spesa da cui spunta una pianta di insalata dà meno nell'occhio di un uomo. Ma l'esplosivo era molto questa volta e pesava moltissimo. Ed ecco che nelle ore di sole, l'ora in cui tutte le mamme cercano di far prendere una boccata d'aria al loro bambino, si vedono due sposini che spingono con trepida cura una carrozzina chiara con le ruote gommate. Si chinano ogni tanto con aria ansiosa a sistemare la copertina. Rallentano con cura e dolcezza infinita ogni volta che c'è da scendere o da salire lo scalino dei marciapiedi. Che la carrozzina non abbia scosse, che il loro tesoro arrivi sano e salvo. A un certo punto una vecchia signora, che li osservava mentre scendevano l'ennesimo scalino, con amorosa attenzione, si ferma, sorride, si avvicina. Vuol vedere il bimbo che c'è dietro le tendine abbassate? Posso vederlo? Pronti, due giovani sposi fermano il suo gesto a metà. No, no, dorme. La vecchia signora sorride con indulgenza, scuote la testa e si allontana intenerita. Mia sorella e mio cognato si guardano turbati per lo spavento provato, poi scoppiano a ridere rimettendosi in cammino. L'esplosivo arrivò dove doveva arrivare. A me il compito di cercare di inquadrare un po' la vicenda raccontata da due esponenti di questo movimento, che fu un movimento della Resistenza, che fu anche più tardi un partito politico e che, leggendo nella ricostruzione la cosa che a me ha colpito quando ho cominciato a sfogliare il libro è ripercorrere nelle pagine di questo libro pezzi di importante storia italiana. La casa di Silvia Garroni era la casa rifugio di Longo, Amendola, Alicata, oltre che a Rodano, Ossicini. Silvia Garroni conosceva perché lavorava nella stessa, prestava l'opera nella stessa congregazione della San Vincenzo, conosceva la sorella di Bachelet, il magistrato molto vicino a Moro che fu ucciso dalle Brigate Rosse. Conosceva quella che sarà poi, che diventerà la futura moglie di Moro. Insomma, si ha l'impressione di entrare in un cenacolo, diciamo, di giovani prevalentemente intellettuali, in cui cresce mano a mano, cresce una spinta ideale di libertà che si coniuga pressoché immediatamente, quasi naturalmente, in una prospettiva antifascista. Si entra quindi in una storia che magari vista per gli esiti partitico-politici forse non dice molto, nel senso che poi la sinistra cattolica quando si istituì in partito ebbe vita assai breve, ma il pensiero che portò avanti, il pensiero che cominciò a coltivare, è un pensiero che credo a tutt'oggi meriti di essere ripreso, di essere rimeditato, soprattutto in alcuni aspetti di fondo e in particolare a quella che poi fu l'elaborazione teorica di Rodano, che era sostanzialmente, io provo a sintetizzarla in breve, la laicità della politica da una parte e dall'altra parte le scelte religiose che appartengono all'individuo. E quando si parla di scelte religiose, scelte da, diciamo religiose autonome, ma per tutte le fedi, sia quelle religiose in senso stretto, ma anche le fedi politiche, cioè il dogmatismo. Ecco, credo che se c'è una lezione che oggi, ancora oggi, si possa trarre da quella che è stata una grande esperienza di pensiero politica e culturale, sia questa, cioè la laicità della politica da una parte e le scelte individuali per quanto riguarda le scelte religiose dall'altra. Il che significa sostanzialmente liberare l'impegno politico all'impegno civile, cioè l'impegno civile dei cittadini, e questa fu una delle chiavi, per così dire, che permise a questi giovani cattolici di sposare a un certo punto anche l'impegno politico. Si trattava sostanzialmente di, nel panorama della resistenza che si divideva un po' per linee, grandi linee di pensieri ideali, la comunista, la socialista, la liberale, di un gruppo abbastanza particolare, perché cercava di trovare un ponte fra il cattolicesimo e il comunismo e cercava, ed era uno sforzo che partiva da un'ansia di libertà. Ricordo di aver letto una testimonianza di Ossicini era un altro intellettuale che fondò che diede diciamo lustro a questo gruppo, a questa formazione, a questa esperienza, che diceva: il nostro antifascismo nacque quasi naturalmente, erano giovani che si incontravano sia nell'età del liceo ma anche poi all'università, si incontravano e cominciavano a discutere, e le ragioni della discussione erano le letture, evidentemente le letture di Croce, e cominciò poi anche a circolare qualche libro, per così dire, eretico, insomma le opere di Marx, addirittura Stalin più tardi, ma era un cenacolo di giovani che discuteva attorno alla libertà e si faceva delle domande abbastanza semplici, se vogliamo, ma con fortissime implicazioni da un punto di vista dell'impegno. E perché ci costringono oggi la nostra libertà? Dobbiamo ricordare che nel 1931, ad esempio, le leggi fasciste non permisero all'associazione cattolica di continuare ad operare, quindi furono vietati anche i circoli dell'associazione cattolica, e queste domande che nascevano da questi giovani erano delle domande che li mettevano insieme, cominciavano a mettere in comune un'idea, che era un'idea prettamente di libertà. Ci furono nel proseguio della maturazione di questa esperienza anche delle scelte importanti, delle scelte che poi portarono questi giovani a entrare nel pieno della lotta per la resistenza, anche delle scelte di vita clandestina. Sia Silvia Garroni che Paolo Muruzzi ebbero dei ruoli di assoluto rilievo nella resistenza a Roma, erano responsabili dell'organizzazione, ne parla poi, e leggeremo anche una parte rispetto a quale fu l'organizzazione della resistenza. Quindi ci furono anche scelte importanti, scelte anche pericolose, ma diciamo il tratto che mi pare importante, il tratto di fondo è la maturazione di questo pensiero, la maturazione progressiva di questo antifascismo, che inizialmente non aveva un colore politico, ma nasceva come istinto di libertà in un contesto di regime che opprimeva e cancellava tutte le libertà, comprese quelle di pensiero e di parola. Faceva proprio questo gruppo le posizioni critiche sicuramente di qualche dirigente della sinistra popolare. Abbiamo parlato degli studi, delle letture, o meglio, che in questo gruppo cenacolo di giovani si facevano. D'altra parte, tra l'altro, è una cosa interessante che sia Silvia Garroni che Paolo Muruzzi, ma anche molti dei fondatori di questo movimento, ebbero alcuni luoghi in cui questo pensiero cominciò a fermentare: il Liceo Visconti a Roma, la Scaletta, questa congregazione mariana gestita dai gesuiti, di cui si parla questo nome in questo libro, e che fu una delle cellule della resistenza di Roma e nella storia d'Italia, sfornò e diede spazio a tanti importanti nomi, padri costituenti, persone di rilievo, filosofi. Quindi un accolita, un gruppo, un cenacolo di intellettuali molto, molto importante. E letture e discussioni che cominciarono anche ad entrare nel vivo del pensiero marxista, e del pensiero marxista raccoglievano quella che era l'analisi storica del momento. Il tentativo operato da questo movimento cattolico comunista rispetto a quella che era l'ortodossia, in un certo senso la lettura ortodossa che si faceva del marxismo, fu questo: cioè, da una parte il marxismo di cui da cui si poteva trarre l'analisi dell'attualità, cioè il marxismo storico sostanzialmente, che dava qualche idea di qualche chiave interpretativa per riuscire ad inquadrare il fenomeno, e però tenuto piuttosto staccato, distante da quello che era invece il materialismo dialettico, cioè la parte dottrinaria, per così dire. Questo materialismo storico permise a questi giovani di ragionare sul fascismo e di collocare il fascismo come una situazione, un regime che era sostenuto dalla borghesia, e borghesia guidata dai gruppi economicamente più potenti. In questo senso l'analisi combinava con quella che era l'analisi marxista ortodossa, e dall'altra parte ciò che completava l'analisi di questo gruppo rispetto alla contemporaneità, al momento in cui vivevano, era il fatto che condividevano il fatto che almeno in due momenti importanti, nel 22 e nel 25, cioè l'avvento del fascismo e quello che fu poi il passaggio al regime, a dittatura, con le leggi fascistissime, non ci fosse stato l'accordo delle sinistre, e in particolare all'interno dei cattolici, del Partito Popolare, le anime di sinistra non fossero riuscite a prevalere. Respingevano l'attendismo della Chiesa Cattolica, respingevano la condanna morale, ed erano invece propensi attivamente a combattere il fascismo, così come respingevano anche l'idea del partito interclassista di cui attorno alla quale la Democrazia poi cristiana nacque. La respingevano perché di fatto dicevano: ma un partito interclassista finisce per fare necessariamente gli interessi della borghesia, noi non siamo quelli, siamo contro lo Stato borghese, siamo per lo Stato proletario, non diciamo proprio proletario, ma insomma lo Stato operaio, le classi popolari. Quali furono fu un impegno non solo di pensiero, ma un impegno attivo che portò questi giovani a mettere in piedi manifestazioni eclatanti per quei tempi, e in particolare l'obiettivo era quello di riuscire a fare opera di propaganda la più larga possibile, e da un punto di vista invece della prospettiva di pensiero, dell'orizzonte di pensiero, dell'orizzonte ideale verso il quale andavano, l'idea era quella di riuscire a immaginare un sistema in cui si potesse governare insieme e il nucleo forte fosse la cooperazione. Era un nucleo di pensiero che poi venne sviluppato da Rodano in quello che diventò il partito, con un nome molto complicato, Partito Cooperativista Sinarchico, di cui lo stesso Paolo Muruzzi a un certo punto ricorda, ma dice: ma non mi ricordo più che cosa volesse dire. ed era un nucleo, ovviamente tutto questo tradisce anche, diciamo, l'intellettualismo, un po' di intellettualismo che c'era dietro a questo gruppo, però diciamo che il nucleo di pensiero che venne poi sviluppato soprattutto da Rodano fu poi fatto proprio da quello che fu il cosiddetto codice di Camaldoli, che era la carta di nascita della Democrazia Cristiana e che fu poi quella parte che entrò del pensiero cattolico, che entrò nella Costituzione. Cioè l'attenzione alla società, l'attenzione alle dinamiche sociali e la libertà come elemento portante dello Stato, dell'azione dello Stato. Vi leggo brevemente, cercherò di essere più veloce possibile. Ricorda Paolo Moruzzi, eravamo tutti cattolici. Eravamo gente molto cattolica. La prima cosa che si faceva la mattina prima di metterci in movimento era la visita alla chiesa. Allo stesso tempo però stavamo entrando in pieno nella cultura di sinistra, stavamo leggendo libri sempre più di sinistra e ci si orientò sempre di più verso un avvicinamento dei due momenti importanti dell'epoca, che erano il cattolicesimo e il comunismo. Per questo organizzammo un movimento cattolico-comunista. In questo periodo universitario quindi bisognava cercare di mettere insieme le forze principali che agivano nell'università, noi cattolici comunisti e comunisti veri e propri che nel frattempo si stavano organizzando. Insieme cominciamo ad organizzare delle manifestazioni. Io fui uno di quelli incaricato di organizzare per conto dei cattolici comunisti queste manifestazioni universitarie. Questo fu poi il compito che Paolo Moruzzi ebbe anche nella resistenza, quello di organizzatore, gli rimase questo compito. Ricorda anche che le parole d'ordine in questa prima fase erano pace, basta con la guerra, via i tedeschi, non era ancora via il fascismo in maniera così palese, ma era pace. E ricorda ancora che il movimento dei cattolici comunisti aveva la fortuna di aver messo piede in due tipografie. Una di queste due tipografie era la tipografia del Messaggero, dove c'era un tipografo che era aderente, che aderiva a questo movimento e che permise all'organo del movimento dei comunisti cattolici, che fu la Voce Operaia, di essere il primo giornale uscito alla Liberazione di Roma, fu ancora prima dell'Unità. Uscì questo un po' come aneddoto. Abbiamo detto del partito cooperativista sinarchico e della successiva trasformazione in movimento dei cattolici comunisti fondato verso il 42. Nel 43 ci fu un'ondata di arresti che portò in carcere molti degli appartenenti a questo movimento, Franco Rodano, Tatò, che furono poi rimessi in libertà più o meno nel periodo della caduta del fascismo. C'è da dire che questo movimento si ramificò, non certo dappertutto, infatti fu questa poi una delle ragioni per cui quando venne fondata la sinistra cattolica dopo la Liberazione di Roma resse poco anche come partito politico, proprio perché probabilmente mancava anche di ramificazione, di radicamento in più realtà italiane. In ogni caso furono particolarmente le città di Torino, città operaia per eccellenza, e Milano ad avere due costole importanti di questo movimento. Ricordiamo Balbo per Torino, un filosofo torinese, e per Milano adesso mi sfugge, mi verrà in mente. Nel 44, a Liberazione avvenuta di Roma, questo movimento cattolico si trasforma in partito. Un partito della vita breve, perché venne sciolto pochi mesi dopo. Testimoni dell'assemblea di scioglimento del tempo dicono che ci fosse all'interno di questo partito una spaccatura, c'erano divisioni evidentemente fra chi ormai aveva deciso di confluire nelle file del PCI e chi invece intendeva mantenere ancora una sua autonomia. Di fatto l'altro raggruppamento cattolico dei cristiano sociali che aderiva a questo movimento dei comunisti cattolici mantenne una posizione diversa, distinta. e si arrivò allo scioglimento e ci fu l'adesione al partito comunista, con Rodano che chiese al Partito Comunista che fosse sciolto dallo statuto quel passo che non permetteva la militanza a chi insomma avesse convinzioni ideologiche e religiose diverse, cosa che passò nel quinto congresso del PC nel 1946, e quindi non ci fu più nessun problema. Con lo scioglimento molti militanti decisero poi di entrare in altri partiti. Un ultimo punto volevo cercare di analizzare e sono le basi di pensiero, cioè da dove venivano. Un po' ne abbiamo accennato, ma sicuramente il pensiero cattolico, da Bernanossa, Maritain, furono alcuni degli elementi di forza del pensiero cattolico: il primo nella sua condanna contro il franchismo, il secondo per quello che riguardava il primato delle libertà civili e il primato del, diciamo, temporale rispetto a quello spirituale in un'Europa che stava conoscendo la compressione di qualsiasi libertà e l'avvento del fascismo. Sicuramente la lettura di Croce, quello che fu la libertà, la religione della libertà, l'autonomia della cultura, erano tutti temi propri dell'opera crociana e che furono fatti propri da questi giovani, che in questo vedevano garantita, in questa tensione di pensiero, garantita la loro libertà, la libertà contro ciò che il fascismo contrastava. Poi sicuramente anche le correnti di pensiero della sinistra italiana, dal marxismo di Labriola, ad esempio, che per primo, discutendo e opponendosi a quello che era il radicalismo socialista di Sorel, che sostanzialmente tacciava e tendeva a rifiutare il mondo cattolico come reazione, Labriola invece diceva: con questo pensiero cattolico noi dobbiamo farci i conti, così come fu il pensiero e l'elaborazione del pensiero di Gramsci. E poi sicuramente un altro elemento che permise di costruire questo ponte fra cattolici e comunisti fu la svolta negli avvenimenti che portarono poi alla lotta di liberazione in Italia, la svolta di Salerno, cioè il patto di unità d'azione fra le forze antifasciste, che in realtà insomma veniva un po' più da lontano, veniva dalle lezioni di Gramsci sul fascismo, veniva dal 41, cioè da quando la Russia si era un po' sciolta da quel patto con la Germania, e quindi si era ricostruito anche negli altri paesi, soprattutto anche in Italia, ripeto, quel patto di unità nazionale fra le forze antifasciste, che permise di aprire la grande fase dell'antifascismo in Italia, soprattutto la lotta di liberazione in Italia. Volevo soffermarmi ancora, e non so a che punto sono, non ho neanche guardato l'orologio, non so a che punto. lasciare alle parole di Paolo Moruzzi quello di cui abbiamo parlato prima, cioè se c'è un elemento che contraddistingue questi giovani nel loro tensione ideale, anche nel loro impegno poi fattivo per combattere il fascismo, fu questo primo nucleo, questo primo cenacolo, come l'abbiamo definito, che si raccolse attorno al liceo Visconti e alla Scaletta, questa congregazione mariana dei gesuiti. Paolo Moruzzi ricostruisce questa fase in maniera direi molto chiara e molto emblematica. Vorrei provare a leggervela. A partire da un suo ricordo che parte da Bologna, lui nasce a Bologna, l'evento più forte che io vissi nell'ambito della famiglia, da cui trassi la convinzione che il fascio era da combattere, fu la chiusura del nostro circolo. Si parla di un circolo dell'Associazione Cattolica. Noi eravamo iscritti ad un circolo di Azione Cattolica, che erano gli unici ammessi al di fuori dei circoli fascisti all'epoca, fino a che nel 31, se ricordo bene, forse perché i fascisti avevano trovato che in questi circoli si stava sviluppando un po' di maretta antiregime e li proibirono. Mi ricordo che il nostro circolo era a Bologna, in via del Piombo, una piccola traversa di via Fondazza. Ricordo la grande irritazione di tutti gli associati quando il circolo venne bloccato e sigillato. Noi lì ci ritrovavamo, avevamo il nostro punto d'incontro, facevamo tutte le nostre riunioni e facevamo anche i nostri giochi. C'era un'ampia sala dove giocavamo a pallacanestro e quando fu proibito, avevo 11 anni, mi ricordo la reazione di tutti questi ragazzi, profondamente irritati da questa prepotenza, al punto che i grandi fecero delle riunioni per entrare comunque all'interno per salvare certe cose loro. Il circolo aveva una bandiera e molti volevano andare a prenderla. E ricordo che siccome questi locali erano vicini a una vecchia chiesa, la chiesa di Santa Cristina, in via Fondazza, attraverso il tetto di questa chiesa riuscirono ad entrare dentro il salone a prendere le cose. In tutto questo clima da carbonari, io ragazzino avevo naturalmente un'impressione fortissima di questi episodi, che ancora oggi mi rimangono ben impressi nella memoria. Dico per farvi capire che in fondo, nel modo di essere cresciuto che ho ricevuto dalla mia famiglia, che non era da antifascisti per la pelle, c'era però questo clima ed anelito ad essere liberi che il fascismo non permetteva. Voi capirete, così come il nonno, anche da ragazzo, si sia trovato più facilmente a capire il mondo in cui si stava crescendo. Poi crebbi e da Bologna mi trasferì a Roma con tutta la mia famiglia dopo il ginnasio, prima del liceo. A Roma mi trovai nel liceo Visconti e in questa scuola trovai subito un clima che si associava molto bene a quello che avevo respirato nella mia famiglia. Gli insegnanti di questo liceo erano docenti che non condividevano niente con il fascismo. In realtà era possibile allora che un docente potesse parlare contro in maniera aperta e palese ai propri allievi. Non era neppure immaginabile perché sarebbe stato allontanato nel giro di poche ore. Però erano professori che insegnavano ad apprezzare tante cose che il fascismo invece aveva tolto alla gente: la libertà di pensiero, la libertà di parola. Quindi, attraverso il loro insegnamento, porgevano elementi di sana libertà e democrazia. Molti professori, quasi tutti i professori, non solo della nostra sezione, ma di tutte le sezioni del liceo. Tant'è vero che alcuni professori della sezione della nonna, che frequentava lo stesso liceo, ce li trovammo poi nella Resistenza. Ricordo che il nostro professore di latino e greco, un sacerdote, un grosso cervello, una persona notevole, una persona di una semplicità esemplare, il quale, pur non parlando contro in maniera palese, ci dava principi di sano vivere sociale. In un'altra testimonianza di un altro aderente al movimento dirà: noi sì, avevamo imparato tante cose dai nostri insegnanti, in realtà poi noi le abbiamo trasformate in maniera un po' più radicale. Si cominciava a parlare, non solo nel nostro liceo che aveva le caratteristiche che vi ho raccontato, ma anche in un circolo chiamato La Scaletta, tenuto da gesuiti vicino alla scuola. Aveva funzioni e attività soprattutto di carattere religioso ed era molto frequentato da certi gruppi di studenti. Ma aveva soprattutto una caratteristica, che per noi era molto importante. Era un posto dove noi finalmente ci potevamo vedere, incontrare, chiacchierare con maggiore libertà e scambiare libri. Allora persino Croce era proibito nelle scuole. Non so bene, ma insomma cominciò a circolare qualche libro che fino ad allora noi non sapevamo neanche che potesse esistere. E lì si cominciò ad avere anche qualche contatto esterno. Oltre a noi del Visconti, venivano anche altri studenti di altre scuole, dell'ambiente universitario. Soprattutto quando arrivammo all'università cominciarono ad esserci dei contatti anche esterni. Gli studenti ragionavano sulle loro prerogative di libertà. Perché non possiamo leggere? Perché non possiamo scrivere? Perché non possiamo riunirci? Perché non possiamo organizzarci? Questa era una cosa che ci dava fastidio orribile. Qui non si parla di politica, qui si lavora, qui si studia, qui si mangia. Questi erano gli slogan del fascismo e a noi studenti queste restrizioni non andavano bene. Noi volevamo parlare, discutere, scrivere, quello che ci pareva, volevamo pensare quello che ci pareva, leggere quello che ci pareva. E si cominciò ad avere degli incontri più frequenti. E poi qui continua raccontando, a proposito dei libri che cominciano a circolare, anche della lettura di Marx, se non addirittura anche di qualche scritto di Stalin. Siamo nella fase di passaggio, cioè nel momento in cui questo movimento, e siamo all'8 settembre del 43, si organizza e si struttura in maniera più solida, la lotta clandestina evidentemente lo vuole, ed è anche il momento in cui questo gruppo, il rapporto con la Santa Sede si incrina. Se fino a prima, poco prima dell'8 settembre del 43 c'è il portavoce della FUCI e l'antenna, per così dire, della Santa Sede, Andreotti, che mantiene, cerca di mantenere anche dei contatti con questi giovani che nel frattempo sono in carcere. Massimo Franco del Corriere della Sera ha ricostruito alcuni belli aneddoti da questo punto di vista. Andreotti che porta le fette di torta in carcere a Ossicini, e Ossicini che dice: io fui il primo ad essere per così dire seguito dal Soccorso Rosso e anche dal Soccorso del Vaticano. Però l'8 settembre di fatto segna, diciamo, una sorta di spaccatura, si incrinano i rapporti con la Santa Sede. Nel frattempo la Democrazia Cristiana evidentemente sta guardando la prospettiva, il partito è interclassista, sono giovani che non sono ben tollerati evidentemente la Santa Sede non poteva certo permettersi di portarsi la lotta di classe in casa. E dall'altra parte però la confluenza nel Partito Comunista forse fu uno di quei momenti che forse anche Togliatti avrebbe preferito forse non dover gestire, un po' perché fu il momento poi dei governi costituenti, e un po' anche perché quella sinistra cattolica sarebbe stata forse più importante all'interno della Democrazia Cristiana, nella sinistra dossettiana ad esempio, così come anche i gesuiti avrebbero voluto. Di fatto, insomma, ci fu questa confluenza, come abbiamo visto, nel partito comunista, e all'interno del Partito Comunista, soprattutto Rodano, sarà poi la persona che sarà più vicina a Berlinguer, diciamo, colui che aprì, dal punto di vista anche della sua tradizione di pensiero, la tradizione anche di pensiero di questo movimento, aprì la stagione del cosiddetto compromesso storico. Io mi fermo e spero di non aver abusato della vostra attenzione. Grazie. Darei lettura di un altro ricordo di mamma, che scrive sul periodo che ha trascorso nel carcere di Modena, nella primavera del 44. A Modena passai gli altri 3 mesi di carcerazione con un sacco di episodi difficili. Per esempio, lì vicino c'era il campo di concentramento di Fossoli, dal quale si andava al campo di concentramento di Bolzano, e da lì si partiva per la Germania, e quindi molto spesso c'era un passaggio di gente che veniva giù e che doveva andare al nord. Assistetti a scene molto brutte. Per esempio, quando eravamo alle Mantellate a Roma, altro carcere di Roma, un giorno erano arrivate delle donne ebree. Tra le altre c'era una donna ebrea ancora giovane, colta, moderna. Era bella, allegra, coraggiosa. Mi ricordo che portava sempre una vestaglia di velluto azzurro. Diceva che sarebbe vestita il giorno della liberazione. Pensava sempre ai suoi 2 figli che aveva lasciato presso amici fidati in Vaticano ed era felice che fossero al sicuro. Mi mandava spesso a chiedere dalla scopina di cantare un bel "Di vedremo" attraverso le grate, e sognava tutte le notti lo sbarco alleato. Anzi, era vicina e sentiva tuonare il cannone. Era stata presa come antifascista, non come ebrea. Non avevano potuto trovare nulla. Alla fine era uscita. Si imbuchi, la terranno d'occhio. Sono troppo stupidi, non è possibile. Si ingannava, purtroppo, fece male a fidarsi. La rividi diversi mesi dopo nel carcere di Modena. Una notte si sentì un gran trambusto. Ci svegliò il calpestio di molte persone. Riuscimmo a farci aprire dalla custode. Erano nel camerone attiguo al nostro, erano più di 40 ebree, giovani, vecchie, alcune bambine perfino. Le avevano buttate lì, sul nudo pavimento, perché vi passassero il resto della notte. L'indomani dovevano proseguire il viaggio, un lungo viaggio. Il tanfo mi prese alla gola entrando nel camerone, non si respirava lì dentro, ed improvvisamente me la vidi davanti. Aveva di nuovo la sua vecchia vestaglia azzurra, ma non aveva più il suo allegro sorriso e gli occhi erano cerchiati di nero. Non rimpiango di aver lavorato ancora, sono stata stupida, dovevo stare più nascosta. Adesso ci portano via. Dove via? I tedeschi, mi interruppe con una rapida occhiata. Faccia attenzione, c'è la bambina. Mi voltai, subito alle sue spalle c'era una bambina pallida, dai lunghi capelli neri, scarmigliati. Poteva avere 12 anni. Si guardava intorno smarrita, con i grandi occhi neri intelligenti. Non aveva sentito. Non so per quanto tempo riuscirono a illuderla. Ripartirono all'alba, vennero deportate con un lungo treno con i vagoni sigillati. Fu l'ultima volta che la vidi. La custode disse con le lacrime agli occhi che quei convogli non tornavano mai. Era una donna forte, consapevole, perfettamente cosciente che per lei era finita, ma riusciva ancora ad avere pietà di una bambina, a cercare di alleviarle l'orrore che prova chi non ha più speranza. Quando capimmo come stavano le cose, smettemmo di fare domande cretine e demmo loro una parte del nostro cibo per aiutarle un po'. Il rischio di un secondo arresto. È una testimonianza di papà. Ricordo che ero in piazza Esedra a Roma con Adriano Sicini, che parlavamo delle nostre cose, del nostro movimento. Ad un certo punto mi venne incontro una persona, a braccia aperte, con le lacrime agli occhi, piangente, che mi abbracciò. La riconobbi subito al volo. Era il responsabile dell'organizzazione comunista del Celio, Culini, che io sapevo essere stato arrestato. Me lo vidi di fronte e mi disse: «Paolo, ti devo parlare con urgenza, dammi un momento». Io e Adriano Sicini ci salutammo rapidamente e io con lui entrai nel retro di un bar in piazza Esedra. Lui con le lacrime agli occhi fece una tragedia tremenda, dicendo che era stato in via Tasso, e Tasso era il posto della tortura a Roma, che lì era stato torturato, seviziato. Mi fece una descrizione orripilante di quello che vi succedeva. Mi raccontò che lui era riuscito a fuggire e poi mi disse che era convinto che far fuori via Tasso non sarebbe stato un problema. Mi cominciò a disegnare su un foglio con una matita. Qui c'è l'accesso, qui c'è la porta, qui c'è il corridoio. Mi disse che ci sarebbe voluto un gruppo di partigiani ben decisi e che non sarebbe stato un problema espugnarlo. Io dissi che avremmo studiato il progetto, che ne avrei parlato chi di dovere e ci demmo appuntamento per 2 giorni dopo. Essendo quello un comunista, presi subito contatto con Ingrao, che era responsabile militare dell'organizzazione a Roma. Mi ricordo questa passeggiata con Ingrao sul Lungo Tevere, in cui gli raccontai quello che era successo. Ingrao mi lasciò parlare per 10 minuti, un quarto d'ora. Poi mi disse: «Senti Paolo, tu per favore sparisci. Tu a quell'appuntamento non ci andrai. Sparisci e non se ne parla neanche. Io e te per qualche giorno non ci vediamo nemmeno». Il giorno dopo, o 2 giorni dopo, uscì sull'Unità clandestina con un articolo a tutta pagina: «Armando Culini tradisce», in cui stroncavano questo tale in una maniera terribile. Invitavano tutti i compagni a tenere il massimo delle distanze, e probabilmente avevano ragione, perché era inspiegabile che quello potesse essere stato in via Tasso ed essere venuto fuori con la pelle salva. E quindi era uno che aveva ceduto, forse sotto le torture, non aveva resistito. E allora l'avevano invitato a fare da specchietto degli allodri. In quel momento mi resi conto del rischio che avevo corso anch'io. Intanto grazie dell'invito. Bertoldi mi ha invitato un po' all'ultimo momento, quindi insomma mi sono fatto un po' di idee, un po' di lampi mi sono venuti rispetto a questo racconto che ho incontrato, e mi è sembrato un racconto importante. Poi sulla parte storica Giorgio ha già fatto, ha delineato un po' tutto, quindi mi ha anche tolto un po' di cose da dire, per cui no, ma le dette molto meglio di come avrei potuto dirle io, quindi insomma è andata bene. No, intanto questo dei racconti, delle biografie rispetto alla resistenza è un filone importantissimo, perché seguendo il racconto di queste vicende si ha come l'impressione di esserci in mezzo in qualche modo, no? Quindi c'è come un transfer per cui si rivive la storia e c'è questa implosione di empatia quasi, no? Per cui mi è sembrato molto importante rivivere i luoghi, anche le memorie più difficili, queste carceri dure dove appunto c'è una convivenza difficile anche con lo sporco del carcere, c'è un passaggio che racconta Silvia, dove appunto racconta questo incontro con le pantegane nel carcere, no? E poi momenti anche di tenerezza che sono molto belli, quando si crea questa dinamica di solidarietà all'interno del carcere, ci sono alcuni passaggi veramente molto commoventi che danno un po' l'idea di che cosa significava essere lì in quel momento in quella situazione, con quel regime che appunto, con quella spietatezza di quel regime. Per cui io credo molto in questi racconti che sono un po' le testimonianze viventi, quindi ancora molto vive, molto utili, soprattutto per le nuove generazioni, che credo che sia stato un po' appunto il compito di un libro che non è un libro, ma è un racconto ai nipoti e quindi un racconto alle nuove generazioni che vivono tutta un'altra storia, ma che, come spesso diciamo, e soprattutto l'Ampi fa, insomma, siamo il frutto di quella storia, no? Perché se noi abbiamo una Costituzione come quella che abbiamo e abbiamo avuto una storia repubblicana come quella che abbiamo avuto, è grazie un po' e soprattutto al lavoro e all'impegno di questa storia, di questa memoria. In particolar modo a me è piaciuta molto e mi sono trovato casualmente però sullo stesso terreno, perché è una storia che un po' rappresenta anche la mia vita, nel senso che il mio orizzonte fa parte di questa storia, di questa cultura del cattolicesimo di sinistra, cattolicesimo diciamo del movimento cattolico comunista e poi tutto quello che ne è conseguito. A me piacerebbe un po' leggere questa storia, questa memoria dei cattolici comunisti appunto antifascisti a Roma, l'esperienza di Franco Rodano, di Ossicini, in un quadro più generale, che è l'impegno, il coraggio dei cristiani contro il nazifascismo in generale. Noi ci siamo molto soffermati in questi anni, dico io stesso, ma anche come Centro per la Pace, che in questo momento coordino, a continuare questo racconto, diciamo dare ossigeno a questo racconto delle memorie antinaziste in prevalenza di matrice cristiana. E mi piace molto questa parola, più che cattolica, cristiana, che allarga e dilata un po' il rapporto tra fede e storia. E questo tentativo, che non è esaurito, diffondere, diciamo creare in qualche modo un ponte tra la cultura marxista e quindi l'orientamento materialista marxista e l'ispirazione evangelica. Io mi ritrovo molto in queste, io ritrovo in questa storia, in queste storie, molta attualità, perché è vero che sono collocate in un contesto storico particolare, in uno scenario particolare, però secondo me i frutti, i semi di questa storia si sono sviluppati nel mondo e io direi che ci trovo dei riflessi globali. Secondo me anche alcune, adesso faccio dei riferimenti anche un po' azzardati, però molte di queste memorie tornano per esempio in un grande capitolo dell'ecclesiale contemporaneo, che è il Concilio. Secondo me il Concilio Vaticano II si è rifatto molto a questa storia e secondo me anche altri movimenti più ampi come la Teologia della Liberazione in America Latina hanno sullo sfondo questa storia di un cristianesimo che ha fatto i conti con la guerra e ha fatto i conti con la resistenza. Ecco, quindi insomma noi ci siamo soffermati molto sulle memorie antinaziste in area tedesca. A livello locale abbiamo prima parlato di questo convegno su Hans Heygarter, di cui ho avuto insomma anche l'onore di partecipare e salutare a questo convegno, ma Franz Thaler, Josef Mayr-Nusser, i giovani della Rosa Bianca, che è stato un grandioso episodio di antinazismo, Dietrich Bonhoeffer, il teologo protestante impiccato a Flossenbürg nel 1945. È un seme, diciamo, quello di una fede diciamo immessa nelle contraddizioni della storia, che non solo riabilita in qualche modo un atteggiamento della Chiesa un po' ambiguo durante quel periodo, però anche afferma il fatto che dentro quella storia evangelica, in qualche modo, dentro quella storia di di tutela di alcuni valori del cristianesimo, che sono i valori della libertà, i valori della libertà di coscienza, i valori della pace, della giustizia, dei diritti, sono valori laici, si è giocata una importante partita. Ecco. In particolar modo credo che Franco Rodano abbia avuto un ruolo importante, anche dopo, ovviamente tu l'hai anche ricordato, di tessitura di una di un filone che poi insomma ha avuto, credo, un ruolo importante nella politica del dopoguerra, che è quel filone dei cristiani che si sono collocati dentro il Partito Comunista, affermando la propria identità, però insomma trovando spazi, e credo abbiano avuto anche un ruolo di aver in qualche modo innovato anche alcune strutture del partito piuttosto bloccate. Infatti il problema di Rodano non era solamente quello di uscire dagli steccati della Democrazia Cristiana e della visione dei cristiani diciamo intruppati dentro un partito, ma il problema era quello di riuscire a far breccia dentro il Partito Comunista, che non era facile, perché anche lì c'erano dei forti steccati e delle paure e dei pregiudizi rispetto a questi eretici in qualche modo cattolici o diciamo che erano usciti dal sentiero dei cattolici, dell'unità dei cattolici in politica. Quindi il ruolo di Rodano, secondo me, è ancora tutto da studiare per certi versi, perché anche intorno a questo personaggio si è creato un forte dibattito. E io credo che Ossicini abbia ragione quando dice che non possiamo definirlo un cattocomunista, Rodano, ma Rodano è stato un cattolico, fortemente cattolico, però con una profilo politico totalmente laico. Lui è riuscito in qualche modo a fondere queste due anime, che non è facile come sappiamo, e credo che sia stato un grande tessitore di una possibile prospettiva politica, no? Che poi ha avuto un'influenza molto forte dentro la storia politica italiana. Pensiamo per esempio ai padri della Costituzione, ai professorini come Dossetti, Lazzati, La Pira, lo stesso Moro, pensiamo anche agli indipendenti dentro il PC, insomma diciamo questo filone della sinistra indipendente. Noi abbiamo molti amici, La Valle, a Torre Masina, ancora adesso c'è un tentativo di ristabilire, riabilitare un po' la sinistra cristiana, che probabilmente non approderà a granché, però di fatto insomma questo seme ha passato un po' tutta la storia politica e ha dato all'Italia alcuni dei grandi punti di riferimento. E anche dentro la Chiesa c'è stato una serie di personaggi che hanno avuto una grande influenza anche sulla base popolare dei cattolici, ma non solo, che si sono ispirati a questi fuochi. Per esempio pensiamo già al fatto, alle varie resistenze in ambito cattolico. Io penso per esempio a un grande personaggio che è stato David Maria Turoldo, Camillo De Piaz, che poi sono stati dei grandi insomma alimentatori culturali e dei grandi punti di riferimento della base cattolica. Prendo per esempio padre Ernesto Balducci nella Firenze di La Pira, penso allo stesso Arturo Paoli, che abbiamo avuto modo di commemorare qualche anno fa, che si è anche è stato nominato dallo Stato di Israele giusto tra le nazioni per aver salvato vite di ebrei. Ecco, quindi insomma è diciamo un filone, un fuoco culturale e politico che ha attraversato tutta la storia, e io credo che ancora oggi ce n'è grande bisogno di alimentarci e di abbeverarci di nuovo questa fonte della cultura e dell'impegno politico. Ecco, io insomma sono alcune delle riflessioni un po' disarticolate che mi sono venute leggendo questo libro. A me piacerebbe ricordare un altro intellettuale, un giornalista che andremo a ricordare il 22 maggio con un grande convegno a Bolzano all'università, che è Paolo Giuntella, che è stato uno dei volti del TG1, quirinalista, forse ve lo ricorderete, che è morto l'anno scorso. Paolo Giuntella era figlio di Vittorio Emanuele Giuntella, che è stato un deportato, uno storico deportato nei campi di concentramento e è un resistente, e Paolo Giuntella ha raccontato alcune figure di antinazisti. È stato il primo giornalista in Italia a raccontare la storia di Meyer Nusser, a raccontare la storia di Franz Jägerstätter e dei giovani della Rosa Bianca, anche presidente della Rosa Bianca. È morto l'anno scorso giovane, abbastanza giovane, per un tumore che appunto lo ha portato a morte. In un suo ultimo libro lui scrive un passaggio molto interessante, molto bello, che rilancia un po' tutto quello che abbiamo detto e rilancia la prospettiva dei cattolici a sinistra, della sinistra cattolica, dei cattolici comunisti, e dice: «I cristiani del resto, cattolici e protestanti, per i loro valori, le loro scelte profetiche, le loro scelte concrete, sono sempre più costretti ad essere minoranza rispetto ai controvalori militari, economici, culturali, di stili di vita dominanti. E se si comincia a pensare in termini finalmente planetari, e non soltanto regionali o subregionali, anche al di là degli orientamenti moderati e conservatori dei cattolici domenicali o delle curie, i cristiani e le chiese, addirittura contro la loro stessa volontà, sono oggettivamente a sinistra. Nel conflitto nord-sud i cristiani sono e saranno sempre di più a sinistra». Quindi insomma mi sembra che nel deserto di qualche modo che viviamo tutti, dentro la Chiesa, fuori dalla Chiesa, per la sinistra italiana, rifarci a queste fonti, a questi fuochi, credo sia un fatto molto importante che dà anche un po' di segni di speranza per il futuro. E quindi io sono molto contento che questi racconti escano e vengano raccontati alle scuole e gli studenti, i giovani possano leggerli, perché attraverso questi racconti che in fin dei conti noi riscopriamo le nostre radici e riscopriamo anche le radici di un impegno per la pace, per i diritti umani, per la non violenza, per il rifiuto della violenza e delle brutalità di un sistema che è un sistema che potrebbe sempre ritornare, come ci dice Brecht. Quindi ringrazio tutti quanti per l'invito. Grazie. Vi leggo brevemente l'ultima parte che riguarda la liberazione di Roma, scritto da nostra madre. Era il 2 giugno del 44. Dopo un quarto d'ora che avevo finito il bagno, c'erano già lì Paolo e un altro compagno, che avevano saputo che ero stata liberata, e mi venivano incontro. Poi mi dissero che non conveniva lo stesso che io dormissi a casa, perché con i fascisti non si sapeva mai, e che mi avevano trovato un appartamentino dove passare la notte. Mi accompagnarono in questo appartamentino, che era via Flaminia, ed era a piano terra. C'erano le persiane chiuse, e io potevo guardare attraverso queste persiane, ma non dovevo aprirle, perché potevano vedere dalla strada che c'era gente in casa. A un certo punto della sera, mentre stavo per mettermi finalmente a letto e a farmi una bella dormita, incominciai a sentire un sordo rumore che proveniva dal centro di Roma e si avvicinava. Allora mi accostai alla finestra e mi misi a guardare attraverso le persiane e vidi una fila lunghissima di camion tedeschi, guidati da tedeschi, i quali fuggivano verso nord e facevano la via Flaminia. Io ero proprio al principio della via Flaminia. Quelli andavano verso il nord e si portavano via tutta la roba che avevano preso. Poi si portavano via i propri feriti, che nella furia di andare via avevano scaraventato con gli altri malati e i loro compagni, tutti in fila sui pavimenti dei camion senza coperti, senza niente, tutti fasciati come si poteva, con macchie di sangue sopra le bende. E tutti questi qui che gemevano e si lamentavano. Il giorno dopo, gli americani entrarono a Roma e verso il ponte Cavour incontrai il primo americano che aveva gli occhi azzurri e vedendo che sorridevo mi si avvicinò e voleva che lo accompagnassi. Io risposi che avevo da fare e mi allontanai. Però vederlo lì, sul ponte, sotto casa mia, mi sembrava inverosimile. Era una cosa che non mi aspettavo. Poi si cominciarono a vedere le auto blindo degli americani e tutta la popolazione ci si arrampicava su e gli faceva festa. Anche noi eravamo felici, solo che poi sapemmo di alcuni nostri amici che erano morti e quindi la nostra gioia si ridimensionò. La mattina del giorno che arrivarono gli americani, io andai in su verso il messaggero, dove si stampava voce operaia, per vedere se c'era qualcosa da fare e per distribuirla, e non mi dimenticherò mai che venendo da Piazza Colonna e andando in su, mi vidi venire incontro che scendeva dal messaggero Adriano Sicini, con la barba bionda e capelli lunghi svolazzanti, che distribuiva voce operaia. Questa scena non me la dimenticherò mai, come un quadro, mi sembrava finalmente di aver riconquistato la libertà, come infatti era. Voce operaia fu il primo giornale che uscì dopo la liberazione. Nel 1946, a giugno, quando ero già incinta e aspettavo Giovanna, da un'ora all'altra, finalmente riuscimmo a organizzare le prime elezioni democratiche della storia d'Italia. Andai a votare con un pancione enorme. Ricordo che mi fecero passare davanti a tutta la fila. C'erano i soldati che tenevano la fila in ordine e votai. E finito di votare andai a casa e nacque Giovanna. Poi tutti fecero una bella festa per la bella repubblicana e mi raccontarono i particolari, di cui alcuni molto buffi. Tutta Roma festeggiò quella notte. In una di queste feste a casa di mia sorella, nell'euforia del momento, furono visti Aldo Natoli, Paolo Bufalini, che seduti per terra in un angolo parlavano greco antico tra di loro. Ciucchi. Un po' di mesi più tardi Paolo e io fummo chiamati al Ministero della Guerra e lì ci diedero un foglio che conservo ancora, in cui veniva attribuito a Paolo il grado di capitano e a me il grado di sottotenente. La cosa ci fece un po' ridere, ma conservammo il foglietto per ricordo. Io ringrazio tutti, abbiamo preparato un... Forse qualcuno ha delle domande da dire, prima le domande, ma prima per i pasticcini, voglio che facciamo un gruppo, perché per l'Ampi è troppo importante non portare dire questo ricordo. Quindi io prego la famiglia Moruzzi, l'assessore che è presente, i due relatori, di fare un gruppo assieme e la prego la signora di farci una foto. Lo facciamo, non mobilizziamo se ci sono delle domande, perché qua c'era anche Vincenzo Calì, che non so se è andato non so se vuol dire qualcosa, dato che lui è il primo che ha avuto questo testo e che è depositato al Museo del Risorgimento di Vincenzo Trento, se vuoi e non so dire se c'è qualcun altro che magari vuol dire qualcosa. Due parole solo. Abbiamo preso non volevo farmi scappare prima. Io, anche per l'amicizia con Giovanna e con gli altri Moruzzi, al Museo Storico in Trento abbiamo raccolto una testimonianza dei coniugi Moruzzi, che deve essere poi rielaborata, come sempre si tratta di una testimonianza video, però è importante perché è una documentazione importante. E ricordo soprattutto di Moruzzi l'ultima domanda sulla Costituzione, perché insomma il problema, quando gli feci l'intervista, è stato circa 2001. Era un momento, 2002. Era un momento particolarmente difficile, c'era un governo in Italia. Uno dei momenti. Vabbè, io parlo storicamente di quel momento, non parlo di oggi, parlo di allora. E c'era un momento molto difficile, no? Dossetti aveva lanciato pochi anni prima l'allarme sulla difesa della Costituzione. E fu proprio su quella domanda sulla Costituzione che lui ebbe un momento, diciamo così, quasi di smarrimento, nel senso che si rese conto di quanto tutto quello che era stato fatto dalla sua generazione poteva rischiare di essere perduto. Questa è la testimonianza forte di quella intervista video in cui racconta la sua vita, di quegli episodi che oggi abbiamo appunto sentito da Mezzalira appunto e da Comina richiamati. Volevo soltanto aggiungere che poi non è così lontana l'esperienza evangelica e diciamo così cristiana che muove il movimento antifascista, qui non è molto lontana l'esperienza anche in questa regione, perché anche in Trentino Mario Pace, medaglia d'oro della Resistenza, morto il 10 di marzo, impiccato nel Bosco dei Castagni a Belluno, nel Bellunese, attraverso il Proletario, che era il giornale che aveva molte analogie con la Voce Operaia, e con la presenza di Gino Lubic, il fratello di Chiara Lubic, che era molto attivo nel movimento resistenziale, fa parte di questa storia, no? Che è una storia di un movimento con forte impronta evangelica che si muove nell'universo cristiano anche in questa regione dalla parte italiana, non solo quella tedesca giustamente ricordata da Comina, però non dimentichiamo che Chiara Lubic e Gino Lubic, che sono due testimoni importanti, primo perché sono stati educati in una famiglia in cui i loro genitori erano tipografi del giornale di Cesare Battisti, del giornale socialista, che portava valori evangelici all'inizio del secolo, in una realtà molto difficile come il Trentino. Ecco, nella Resistenza trentina, la figura di Pasi, il proletario, le canoniche come luogo di incontro per permettere l'uscita del giornale testimoniano anche per la realtà della parte italiana di questa regione del significativo contributo portato dal movimento cristiano. Ci sono forti analogie tra il movimento di Roma e il movimento che nasce, che poi troverà l'interprete più autentico in Chiara Lubich, la quale, costruendo questo movimento universale dei focolarini, ha saputo ben interpretare quello che Comina richiamava prima, un sentimento universale, no, di valori, di pace, che spesso ci dimentichiamo che ha fatto della, diciamo, papessa laica Chiara Lubich un punto di riferimento a livello mondiale, no? Questo rientra in questa storia. Grazie. Grazie.